bel catenaccione per difendere l'1-0, ci fa onore, in tutto il mondo andrà questa prestazione ridicola e domani i giornali riporteranno di festeggiamenti di italiani in giro per le città. No! E per fortuna che è un idiota quello che ha tirato. Rocky Balboa, era lui, ci mostra il suo petto villoso rientrando a centrocampo, ha fallito un'occasione che poteva dare addirittura il pareggio alla sua squadra quando mancano ormai 3 minuti. Rivediamolo, perfetta la scelta di tempo, sì. Magnifica l'inclinazione, sì. È perfetto anche l'impatto con il pallone. Se posso, ci stupiamo proprio che la palla non sia. Non ha proprio voglia di giocare, sta cercando di baciarsi lungamente con un americano, mentre Carnevale e bordo campo sta imparando alcune nuove parole tipo nine in americano, almeno lui è convinto che sia così, e c'è un americano che lo prende in giro da ore. Bergomi, più lento di Haroldo Thierry, rincorre un pallone, cercano di spezzargli una caviglia in scivolata, ma si salva grazie all'aiuto delle sue sopracciglia semovibili. Il pallone è verso Pele Vialli, che si rifiuta di giocare a calcio quest'oggi. D'altra parte a 3-7 molto più forte, inquadrato Vicini con la cravatta più brutta d'Europa, gliel'ha regalata suo figlio Totonno. Il pallone vola ancora indietro, c'è Vicente Ramo, ci prendono per il culo, diciamolo, sono cose belle. Giannini potrebbe far ripartire l'azione, no, Donadoni, è ancora palla nostra, Donadoni, un dribbling ironico, e vabbè, la prima cosa giusta che fa Donadoni, lo stroncano al suolo, la prima cosa bella è che ha avuto dalla vita, diciamolo. Punizione dal limite, degli strani gesti l'arbitro alla barriera, non si capisce, gli ha detto praticamente se non vi spostate vi ammazzo di botte. No, ha segnalato che in questo momento è entrato sul terreno di gioco il camion dei Ritter Sport, speriamo facciano in tempo ad ingollarne un paio, almeno speriamo che le ingolli chi va a calciare questa punizione, credo sia Totò Schillaci. Se c'è ancora Ferri giuro che me ne vado dallo studio. Va bene, ciao Giorgio. No, non c'è. Sono 3 giocatori sul pallone, Donadoni che toccherà in direzione a questo punto di Totò Schillaci, che è rimasto solo. C'è anche Giannini, ma Giannini si sposta, va a discutere con l'arbitro per la posizione della barriera. A 1-1 se ne stanno andando, forse calcia l'arbitro. In barriera c'è anche Paolo Maldini e in una strana posizione c'è Pele Vialli. L'arbitro litiga con Vicente Ramos, che viene spintonato da Nicola Berti, una scena veramente ironica. Schillaci, ah, ha visto il portiere, dove è andato, vorrei saperlo, spero per lui ci sia stata una deviazione, perché altrimenti sarebbe veramente il più cretino del mondo. Rivediamo da dietro, esatto, sì, c'è stata spero un pelino, la sfortuna ci attanaglia, bisogna dirlo. Vediamo la legna di Schillaci, il portiere Ravivello, Stolmeier, come una salamella. Maldini di testa si innalza, Schillaci fa partire una palombella verso il centro, no, cerca di incrudelirsi verso il centro, la palla vola indietro a Ferri, il tempo ormai è scaduto. Zio Bergomi ancora sul pallone, dall'altra parte Rambo De Napoli, è l'ultima occasione per vivere, vedrai che non la perderemo. Donadoni viene arpionato, è fallo, spero questo, l'arbitro ha fischiato infatti. Donadoni si è messo a giocare al 42esimo nel secondo tempo, una buona notizia. Per dimostrare a tutti che lui ha i 90 minuti delle gambe, questo. Però ha solo il 90esimo, cioè gli mancano i primi 89esimo, sì. Non essere ingiusto con lui, Giorgio, è vero, prego. Quando le cose vanno dette, vanno dette. No, entrambi non state dicendo delle stronzate, perché anche l'88esimo nelle gambe. E intanto è finita la partita. Ed eccoci qua. Abbiamo battuto l'America, tutti in giro a festeggiare, mi raccomando, non fate gli imbecilli, state in casa, per cortesia. Mangiatevi dei Ritter Sport. Non facciamoci riconoscere, mangiatevi dei Ritter Sport, guardatevi un telefilm sul vostro Blaupunkt di fiducia. Vi ricordiamo il numero di telefono della segreteria telefonica, ho perso la voce, in funzione 24 ore su 24, adesso controlleremo le vostre chiamate. Attenzione, il numero è 02 49 83 923. Vi diamo appuntamento a domani alle 5:10. Ricorda cosa sta per accadere poi dopo. Per Cecoslovacchia, Austria, le due squadre inserite nel nostro girone. Domani sera per Emirati Arabi Germania alle 9:10. Invitiamo le radio a non interrompere la nostra sigla, ma a lasciarla per intero, perché verrà mixata con un regalino che voi ci avete fatto. Ciao a tutti e buonanotte. There's an Italian flag rising here, there's a bricklayer who's falling, but this tragic event will not detract from all of the faded workplaces on this our country, wonderful, that's so full of peace. senza canzoni e d'amore. Despite the 90s World Cup will begin, and our tricolor flag rising proudly to flaps or as yet and so stiff in the wind. Siamo un gruppo d'ascolto molto nutrito, infatti siamo costituiti da una persona, cioè io che sono...